le torrenti, arricchi i prati, ai liquefatti argenti. Dicembre che languisce, morendo altro che fior partorisce, un nuovo aprile spuntò. Torniamo a dormire, lasciamo i balli e le fatiche insieme, frutti questi di gioia, atti festosi, resaci con riposi, ci invitano a gioire e torniamo a dormire. Ad ogni su su su su il piede si fermò, si fermò al canto cedete, al canto cedete. Su, su, pastori a voi, più non dormite, si diede voci, udite. Al mondo è nato il gran verbo incarnato, a voi si invia, questo è il Messia. Non più timore, che a Betlemme vicino trovarete un bambino in un tuguro, ognun vada sicuro. E altro fattore, consacri il cuore, al mondo è nato, il gran verbo incarnato, a noi si invia, questo è il Messia. Messia, si corra su, si corra su.